Falco e il Gabbiano. Di Enrico Ruggeri. Hai mai seguito il volo di un falco o di un gabbiano? Traiettorie ardite nel vento, dentro al cielo lontano. Io sono così e ho voglia di volare, mentre dico che ti avrò, che ti avrò. Quella che voglio raccontarvi oggi è una storia italiana, è la storia di un uomo che ci ha fatto molto ridere e che peraltro sembrava la dimostrazione pratica del fatto che ci sono due categorie di comici: quelli che fanno i comici tutto il giorno per sempre e quelli che invece hanno un atteggiamento molto più contenuto, più riservato. Lui apparteneva alla seconda categoria, e però comico lo era, e come, era un attore brillante, uno che nella sua carriera è rimasto soprattutto famoso per avere indossato un impermeabile, presentandosi in scena con i capelli dritti in testa, gli occhi spiritati, un'aria stralunata tutta sua. E era uno che nei suoi discorsi ogni tanto infilava uno dei tormentoni più famosi degli anni 80 e 90. Ce l'ho qui la brioche! Ma un paio di panno di quel commissario che nella vita è meglio di Indiana Jones. Se piove le sue scarpe fanno bicio, bacio, e se dilubi il cielo passa e zozzo! E sbrigati sul suro, sali in auto e parti, non vedi la prinzinca e ferma lì. Che macchina del cavolo che sei comprata, forse la meglio prendere un tassì. Commissario, ma che catoccio, può comprarla solo uno squercio, una pizzica verde a quali là. Beh, rap ante litteram. Andrea Brambilla, in arte Zuzzurro, è l'uomo che assieme a Nino Formicola, il cui nome d'arte nella coppia era Gaspar, quello diciamo col naso un po' pronunciato, ha arricchito il panorama comico italiano per quasi 40 anni. Era il membro di una generazione di comici e di attori che attraverso la TV e non solo ha segnato soprattutto gli anni 80 e 90. E molti di questi personaggi sono nati in una specie di cantinato che peraltro si trova esattamente di fronte agli studi di Radio 24, gli studi dai quali vi sto parlando adesso. Siamo in via Monte Rosa a Milano. Beh, il locale non c'è più, però rimane l'insegna, anche se è coperta da un'edera, l'insegna della storica casa del cabaret milanese, e ne abbiamo parlato più volte, il Derby. Dal Derby sono nati dei grandi cabarettisti, Diego Abatantuono, che era il nipote dei proprietari, ma anche Giorgio Porcaro, Felice Andreasi, Massimo Boldi e Teo Teocoli, Giorgio Faletti e tanti, tanti altri. Bene, è al Derby che Andrea Brambilla da Varese incontra il milanese Nino Formicola. In realtà non è proprio un incontro, perché Nino lo vede esibirsi sul palco e da spettatore. Ne parleremo più avanti del loro incontro, perché in quel locale fumoso e buio c'erano tante persone, tra queste anche Mauro Di Francesco. Mauro, ci racconti anche tu com'era il Derby ai tuoi tempi? Arrivare al Derby era il punto d'arrivo. Era, per uno che faceva cabaret, arrivare al Derby voleva dire era tutto. Già nel 75, ti dico, c'erano Cocchi e Renato, c'era Iannacci, c'erano delle cose, c'erano Paoli e Bindi che cantavano con i due pianoforti uno di fronte all'altro. Cioè era un posto dove era sacro, cioè quando si scendeva, io sono arrivato lì che avevo 30 anni già, e lavoravo da 20. Sì. Perché ho cominciato da bambino, per me era vedere dei mostri sacri. Ho baciato il palcoscenico io quando sono entrato, e quando mi hanno detto sì, torna domani. Ecco, questo è il mio ricordo. È lì che hai visto per la prima volta Andrea Brambilla. Il primo ricordo di Brambilla, adesso che me l'hai detto tu però, fu quando lavorava con Fosco. Però non mi ricordo se al refettorio o al Derby. Questo non te lo so dire. Il ricordo che ho io di Andrea, nell'insieme, cioè da 1 a 10 è 11, perché era una persona fantastica, era una persona veramente molto umile, adattabile, super adattabile, era una persona giusta, era una persona buona. era positiva. Grazie Mauro per averci parlato dei tuoi compagni di viaggio. Avevano parlato a lungo di passione e spiritualità. E avevano toccato il fondo della loro provvisorietà. Lei disse: sta arrivando il giorno, chiudi la finestra, poi il mattino ci scoprirà. E lui sentì crollare il mondo, sentì che il tempo gli remava contro. Schiacciò la testa sul cuscino per non sentire il rumore di fondo della città. Ma ripartiamo da lui, Andrea Cipriano Brambilla, nato a Varese il 21 agosto del 46, cresciuto a Cuveglio, che è un paese di 3.000 anime, sempre nella provincia di Varese. Dopo il liceo classico lui si iscrive all'università, economia e commercio, e non fa per lui. Cambia un paio di facoltà, insomma è chiaro che non ha molta voglia di laurearsi, non prosegue, ha talento nello sport, in particolare nello sci, entra addirittura nella nazionale giovanile di sci alpino e gioca anche a pallone, è un buon mediano, è in squadra nel Real Erminia, che è una formazione giovanile dell'Inter, quasi un contrappasso perché lui è un tifoso della Juventus, ma neanche nel calcio farà strada, perché in realtà la strada giusta ancora non la sa bene neanche lui. Fa mille lavori, fa il fotografo, il venditore di auto, fa tante cose, lavora anche con Ambrogio Fogar nella sua concessionaria, il navigatore, però ha una passione e una attitudine, quella di far ridere. Gli piace recitare davanti al pubblico, gli piace fare il comico. Come porti i capelli, bella bionda, tu guardi, porti alla bella marinara. Dipende molto dalle serate. Come l'onda. Dunque io di solito i capelli me li tiro tutti. E torniamo al derby, perché in quegli anni, siamo negli anni 70, non è che a Milano ci fossero dei comici di mestiere o dei posti dove fare cabaret, c'era il locale degli zii di Abbatantuono, è lì che Andrea Brambilla fa le sue prime esperienze, si esibisce insieme a Fosco Gasperi, che poi diventerà il regista del Grande Fratello, vengono aiutati da Gianfranco Funari, che allora era anche lui un comico, li aiuta, gli scrive i testi, riescono a farsi scritturare, anche se la parola scritturare è un po' una parola grossa, perché non è che si arricchiscano gli artisti, lì devono pagarsi anche le consumazioni, hanno diritto solo al cosiddetto mortadellato, che è un pane sul quale è stata strusciata, solo strusciata, della mortadella. Nell'inverno del 75 Fosco e Andrea fanno un piccolo spettacolo, è uno sketch su Vittorio Emanuele I, Andrea interpreta la statua a cavallo del re e tra il pubblico c'è un piccoletto, c'è uno spettatore, si chiama Nino Formicola. Se fosse papa sarei all'Orgiocondo, tutti i cristiani imbrigherei, se fosse imperator sa che farei, a tutti mozzerei il capo a tondo, se fosse morte andarei da mio padre, se fosse vita fuggirei da lui, similemente faria da mia madre, se fosse cieco commissione fui, torrei le donne giovani e leggiate, e vecchie lai della sera e altrui. Se fosse fuoco arderei il mondo, se fosse vento lo tempesterei, se fosse acqua io l'annegherei, se fosse Dio manderelle in profondo. Il falco e il gabbiano. Abbiamo trovato per la prima volta Andrea Brambilla, noto al pubblico come Zuzzurro, al derby, la fucina di talenti milanese, questo particolare locale. E lui al derby ci è arrivato assieme a Fosco Gasperi, che poi diventerà un regista anche del Grande Fratello. Lì un giovane Antonio Formicola, detto Nino, che è il futuro Gasperi, lo vede esibirsi. Lui ha 7 anni meno di Andrea, ha la stessa passione, va al derby come spettatore, di nascosto registra l'audio degli spettacoli per risentirseli a casa, insomma, ha voglia di crescere, di imparare. Li vede per la prima volta Brambilla e Gasperi nel 75, poi ci vorrà ancora un anno prima di conoscere quello che diventerà il suo compagno di scena e di vita, perché sarà proprio Brambilla a avvicinarlo dopo uno spettacolo in un altro locale milanese che si chiamava Il Refettorio, perché a Andrea serve qualcuno che lo aiuti con i testi. Lui accetta il volo, naturalmente, e parte un sodalizio che durerà 40 anni fino all'ultimo. Il suo ruolo di autore però finisce presto, perché il duo con Gasperi si scioglie quasi subito e quindi Andrea e Nino rimangono da soli, e in più la sorella di Formicola si innamora di Andrea. Si sposeranno nel giro di pochi mesi, quindi i due diventano anche cognati, e nel frattempo sono maturi i tempi per la nascita di un personaggio che nel bene e nel male Andrea Brambilla interpreterà per gran parte della sua carriera, il mitico Zuzzurro. Siamo nel 76 e Andrea e Nino scrivono uno spettacolo, Mistero e Foglie di Spinacio. L'obiettivo era presentarlo al Derby. Nel copione c'è questo commissario stralunato con un difetto di pronuncia, si passava tutto così piuttosto marcato, gli manca un nome. Ecco come Brambilla racconta anni dopo come nacque il nome Zuzzurro. Ti ricordi Il Giudizio Universale? Quell'oramai antico film di Vittorio De Sica su sceneggiatura di Cesare Zavattini? Beh, all'inizio della vicenda colà narrata, una voce dal cielo avverte che i viventi saranno giudicati l'uno dopo l'altro in ordine alfabetico. Subito la cinepresa scende ad inquadrare un ometto che felicissimo si sfrega le mani l'una contro l'altra ripetendo «Mi chiamo Zuzzurro, mi chiamo Zuzzurro!» È contento, sarà certamente tra gli ultimi a passare a miglior vita. Ecco, da lì ho preso il mio nome d'arte e per conseguenza la maschera del commissario. Sono le 18, comincia il giudizio universale. Portafortuna, 100 lire, accattatevi un corno, portafortuna, un corno portafortuna, solo 100 lire, 100 lire, accattatevi un corno, 100 lire, io dico un corno, no 50 lire, 100. Cominciamo 100 per ordine alfabetico. Io mi chiamo Zuzzurro. Lungo le file di sale andava il vento che pace non ha. Pioggia di gocce di mare sopra il fango di città, file di muri di cera in mano al tempo che vero non è, sole che viene di sera non si spiegano perché, è la vita che piano muore ed il cielo non ha colore, è la vita che si allontana e il mondo grida il suo dolore, è la vita che lenta cade tra la polvere delle strade, una nuvola si allontana, guarda dove va, siamo tutti qua. Però Zuzzurro allora era solo un personaggio pensato per uno spettacolo. Le prime esibizioni erano quelle di un duo, Brambilla-Formicola, prima al Derby, poi in quelle discoteche di una volta dalle dimensioni gigantesche. I comici non pensavano ancora alla televisione mentre lavoravano, però nel 76-77 arriva una trasmissione TV della Rai che attira una folta serie di comici emergenti. La trasmissione si chiamava Non Stop e stiamo parlando dei Gatti di Vicolo dei Miracoli, della Smorfia di Troisi e Lello Arena e De Caro, e quindi insomma da lì partono molte carriere, e nel 77 Andrea e Nino vengono chiamati per un provino e noi chiediamo a un testimone diretto, anzi al testimone diretto, di raccontarci quel momento. Nino Formicola, buongiorno Nino. Buongiorno Ruggeri. Allora, siamo arrivati, sto raccontando la vostra storia, e siamo arrivati al 77, quindi c'è un provino per Non Stop, per giusto? Non Stop, è il provino per entrare alla Rai. Attenzione. Che incominciò nel 77, sette provini facemmo, perché all'epoca era difficile entrare in televisione. Okay, sette proprio te, come l'Euroleague, cioè sedicesimi di finale, ottavi. Esatto, esattamente così, anche se può sembrare assurdo, ma è così. E noi eravamo in quattro, si chiamavamo Compagnia della Forca, con noi c'era Marco Columbro e Barbara Marciano. I primi provini li abbiamo passati, ma arrivati al penultimo veniamo segati, perché Voglino, il capostruttura, dice che gli interessa solo il commissario. A quel punto Andrea va a Roma e dice no, però l'autore è Nino, cioè perché, no, perché Marco Columbro, che all'epoca era molto più bravo di me, io ero un cazzaro Giovanni, si era rifiutato di fare la spalla di Andrea nel Trovino a 2. Sì. E allora a quel punto hanno proposto me e noi andiamo a Roma nel 78 a fare l'ultimo provino durante i mondiali del 78, era luglio del 78. Un caldo porco, Roma deserta, e noi in un cabaret che si chiamava Johann Sebastian Bar ad aspettare che venissero i Trapani e Voglino a vederci. Naturalmente nel pubblico non c'era, puoi immaginare, quindi c'era un gruppo di amici selezionati che dovevano arrivare all'ultimo momento. Una sera finalmente questi arrivano, chiamiamo all'ultimo momento tutti gli amici che riempiono questa CAF di Roma e io vengo avvisato che stanno arrivando mentre, siccome c'era un caldo porco, ero in bagno a bagnarmi la testa. Io all'epoca avevo i capelli più lunghi e quindi bagnandomi i capelli mi si sono incollati in testa con la riga in mezzo. E ti si sono incollati per la vita. Sì, sì, perché per la vita. Da quel momento. Poi da quel momento, perché Andrea nel frattempo, vedendomi così, ha detto: beh, allora se tu li hai incollati, io mi risternacchio in aria. Fantastico. Sì, fantastico. E noi entriamo in scena, e a quel punto Andrea si rende conto che avevamo scritto uno sketch a due, il primo che avevamo scritto per far vedere al provino un pezzo a due, ma non sapeva come chiamarmi. Certo. A quel punto, guardando in fondo al locale, il barista, che era il proprietario del locale, si chiamava Gaspare. E a quel punto lui mi ha chiamato Gaspare. Sul foglio della Rai, in una sera sola, è andata a finire tutto, perché ci hanno chiamati Zuzzurro e Gaspare, non Brambilla e Formicola, e io mi sono trovato con i capelli incollati. Lui con i capelli in piedi, tu con un nome che non pensavi di avere. Non pensavo di avere mai nella vita, tutto per assolutamente casualmente. Vedi. Le coppie, le grandi coppie, si reggono, al di là su un affetto, voi siete anche, cioè, eravate parenti anche. Ma siamo al di là, stati parenti per un certo periodo, sì. Esatto, ma al di là di questo si reggono su equilibri anche delicati, no? Cioè voi avevate una ripartizione di ruoli... No, cioè noi facevamo una ripartizione di vita, cioè nel senso che due persone più diverse di me e Andrea non potevano esistere, cioè proprio eravamo il bianco e il nero. Noi in comune avevamo due o tre cose, i whisky, la buona cucina e i gialli, quelle erano le tre cose che avevamo in comune. Il resto, uno piaceva una cosa, a uno piaceva l'altra, quindi proprio eravamo diversi. Noi facevamo vite private assolutamente separate, questo è stato il trucco che ci ha fatto durare 39 anni. Però sul lavoro noi andavamo assolutamente d'accordo, perché avevamo una regola piuttosto stravagante, che era: se dicevo una cosa io non andava bene, allora si faceva come diceva Andrea, se lo diceva lui si faceva la rovescia. E poi sai, io e Andrea sul lavoro andavamo talmente d'accordo che non avevamo neanche bisogno di dire una cosa, sapevamo già che quello diceva di no, quindi sì. Era un affiatamento sul lavoro totale. E noi torniamo tra poco ancora con Nino Formicola, con la storia di Andrea Brambilla in arte Zuzzurro. Raccontando la storia di un grande attore comico, Andrea Brambilla, noto al grande pubblico soprattutto come il commissario Zuzzurro, uomo di cabaret, poi di televisione, ma soprattutto interprete di commedie a teatro. E in questo racconto ci sta aiutando la persona che è stata la sua seconda metà artistica, cioè Nino Formicola, il Gaspare del duo, e tra poco lo risentiremo. Il commissario Zuzzurro è sempre in ritardo, perennemente, ma prima o poi arriverà. Sempre, perennemente in ritardo, maledizione a lui. Ma commissario Zuzzurro, che cosa sta fumando? Ah, non lo so. Sono passato davanti a una scuola, un bambino di 8 anni mi ha detto: vuoi una cicca? C'è. Ossa come forza. Il successo televisivo del duo è grandissimo, quel commissario con l'impermeabile stretto in vita, i capelli sparati in alto, lo sguardo spiritato che parla sputacchiando come il gatto Silvestro piace molto alla gente, e il duo che sta funzionando alla perfezione, perché funziona molto il contrasto con invece la figura più piccola di Gaspare, con i suoi capelli appiccicati e i vestiti sempre in ordine. Lo schema dei pezzi comici si adatta alla perfezione ai tempi della televisione, perché Gaspare conduce ogni volta il commissario in una nuova avventura, ovviamente molto improbabile, e Zuzzurro la vive a modo suo. Diventa un filone quasi inesauribile, come quello dei film famosi, perché sono tutte avventure da reinterpretare mantenendo una linea editoriale costante. E il colonnello di Rambo, tu devi andare a salvare i tuoi amici che sono rimasti là nelle mani degli iracheni. Chi se ne frega? No, Rambo non disse chi se ne frega. Rambo disse io sono felice. Molto piacere, sono felice Rambo. No, lui si chiama Johnny Rambo ed è felice. Molto piacere, sono Johnny felice Rambo. No, Rambo disse io sono contento. Molto piacere, sono Johnny felice contento Rambo. Rambo disse io sono onorato. Molto piacere, sono Johnny felice contento onorato Rambo. Una carta d'identità, che così quando vado in albergo prendo una matrimoniale, perché qui con la Nietzsche, no, con la carta d'identità. Con la carta d'identità. Lei vuole con la carne di Tacciumbia, chi è lei? Rambo, molto piacere. Beh, quello è un personaggio che funziona, va cavalcato, però Andrea comincia a intuire il rischio più classico, quello di restare imprigionato in quei panni, di restare incastrato dentro a quell'impermeabile. Lui non ama neanche particolarmente il famoso tormentone Ce l'ho qui la brioche, che invece si afferma come una specie di marchio di fabbrica, è perfetto per la TV di quel periodo, peraltro un tormentone che è nato per caso, una frase detta quasi improvvisando, come ha raccontato lo stesso Brambilla in una vecchia intervista. Con il mio socio Antonio Formicola stavamo improvvisando una scenetta in diretta su Antenna 3. A un certo punto lui sparisce, se ne va e mi lascia da solo. In TV il silenzio è improponibile e, dovendo comunque riempire quel buco, chissà perché mi venne in mente la risposta che da studentello davo a mia madre, replicando ogni giorno più esasperato alla premurosa e, per un ragazzo, proprio perché costantemente ripetuta, insopportabile domanda che mi faceva quando ci sentivamo al telefono: l'hai con te la merenda? Mi ero portato una mano all'orecchio come fosse la cornetta e con l'altra mi ero dato una botta sulla tasca dell'impermeabile, laddove mettevo all'epoca appunto la brioche. Inspiegabilmente il pubblico presente in sala rise a crepapelle. Solo qualche mese dopo, sentendo e vedendo rifare battute e gesto da un tale in un ufficio postale, ho capito le implicazioni sessuali sottese. Non ci avevo mai pensato. Fine degli anni 70 quella televisione è attraversata da una specie di rivoluzione, perché dopo Non Stop c'è Drive-In, la fortunatissima invenzione di Antonio Ricci, e lì Zuzzurro e Gaspare partecipano prima come ospiti, poi entrano per 2 anni nel cast fisso. Esplode la popolarità dei due e li blocca nei due ruoli, il commissario e l'assistente. Così decidono di lasciare la trasmissione e anche il piccolo schermo temporaneamente, perché vogliono provare altro a partire dal teatro. Siamo nel 1986 quando portano appunto in teatro la commedia di Neil Simon, Andy e Norman. Abbandonano i panni di Zuzzurro e Gaspare e diventano la coppia di giornalisti che, per guadagnarsi da vivere, è costretta a scrivere su riviste di qualsiasi genere. Entrambi sono innamorati della vicina di casa, insomma è una commedia molto conosciuta. Nel 91 la commedia finirà finalmente in televisione sulle reti Mediaset. Norman, ho la vaga idea che negli ultimi tempi tu abbia lavorato un po' troppo. Perché non ti prendi una serata di libertà e non te ne vai al cinema? Eh già, e come faccio? Qui abbiamo la commedia della nostra vita, che io non riesco a chiudere con un'idea geniale. Dobbiamo consegnare 5 soggetti porno per la Coitus Film entro agosto, e come se non bastasse, per venerdì bisogna fare 3 articoli. Cosa cavolo ti è venuto in mente poi di prendere un impegno con tutto maglie? Che ne so io delle maglie? Ma lo sai che nel frigo abbiamo soltanto 3 cubetti e una lampadina? E una camicia? Una camicia? Quella non era per il cenone di Natale. Una camicia! E sono anni di successo, di guadagni, di grande popolarità, però gli amici raccontano che nonostante questo Andrea non cambia il suo carattere, perché rimane timido, serio, poco incline al sorriso. È la dimostrazione esatta di quel cliché del grande clown che sorride in scena ed è triste dietro le quinte. In realtà Andrea non è per niente una persona triste, è semplicemente una persona riservata. Se proprio bisogna trovargli un difetto, è quello di avere un po' le mani bucate, un collezionista compulsivo, statue, disegni, quadri di cervi, oppure orologi, bastoni da passeggio, bicchieri, mobili russi, oggetti di scena di film famosi, qualsiasi cosa, è una specie di malattia che influirà anche sull'equilibrio economico dello stesso Brambilla. Ai ai ai, se faccio un figlio, ai ai ai, lo chiamo Emilio, sempre il meglio di Basilio, se una femmina non so. A questo punto c'è un ritorno in televisione, sempre della coppia naturalmente, con una trasmissione di cui sono anche autori, si chiama Emilio, un'altra trasmissione nuova, rivoluzionaria, su Italia 1, grande successo, e loro, Brambilla e Formicola, sono una sorta di capocomici di una compagnia di cui fanno parte tra gli altri Carlo Pistarino, Teo Teocoli, Atina Cenci, Giorgio Faletti. È un successo che non basta dare longevità al programma, che in realtà dura, era solo due stagioni, ma furono due stagioni epiche che vengono ricordate ancora. Poi tornano in Rai 2 per alcuni progetti, tra cui una striscia a ridosso del TG1, si chiama Miraggi, poi di nuovo nelle TV private. Insomma, alternano la televisione con il teatro, che non abbandonano mai. Interpretano commedie come Rumori fuori scena e la celeberrima La cena dei cretini, tratta dal grande film. Nel 2002 Brambilla è in auto, sta andando a Genova proprio per recitare in teatro, e la sua Volvo esce di strada. Lui si salva per un soffio, riporta ferite al volto, alla testa, ma senza danni più gravi, e vedete, non era il suo momento. Si riprende, sei mesi dopo è al lavoro ancora con Nino, alcune apparizioni televisive, e tra l'altro conducono anche una edizione di Striscia la Notizia. E poi lui torna ancora per l'ultima volta a vestire i panni del commissario Zuzzurro. Senti, avendo avuto tutto questo successo soprattutto con due personaggi, come dire, non avete mai sentito il ruolo di, per esempio, lui, il ruolo del suo personaggio un po' ingombrante? Come no? Ma noi l'abbiamo sentito da subito, la nostra fortuna è stata prevenire, nel senso che noi durante il drive-in, che è la trasmissione, sì, che poi ci ha lanciato veramente, che è durato 5 anni, noi drive-in in realtà l'abbiamo fatto solo 2 anni, la gente pensa che noi abbiamo fatto 5 anni, certo, ma in realtà l'abbiamo fatti solo 2, perché noi ci siamo resi conto che rimanevamo bloccati imprigionati, certo, e che era una fregatura, e abbiamo incominciato subito nell'86 a fare teatro, e siamo, sì, usciti dai nostri personaggi, e lì è incominciato il nostro dramma, perché siccome Zuzzurro e Gaspare non è un nome d'arte, è il nome di due personaggi che la gente conosceva come tale. Certo. Quando tu scrivi su un manifesto Zuzzurro e Gaspare, la gente si aspetta Michael Gell e Andrea con i capelli dritti, certo, vecchie. Certo, vai, certo, a far capire che quando fai teatro stai facendo una roba di Neil Simon. E quindi, certo, noi dovevamo uscire prima dello spettacolo a spiegare al pubblico queste cose qua. Questo è durato per parecchi anni. Quindi noi siamo usciti dai personaggi per poi riprenderli proprio verso la fine, verso gli ultimi 2-3 anni, tre, sì, anni prima che Andrea morisse. Noi abbiamo fatto l'ultimo spettacolo nostro di cabaret, che si intitolava Non c'è più il futuro di una volta, sì, in cui Andrea ha rimesso i panni dell'impermeabile di Zuzzurro. Certo. Anche perché lui per anni ha avuto un rifiuto nei confronti di... Immagino, certo, certo. Beh, tra l'altro Non c'è più il futuro di una volta è un titolo meravigliosamente attuale, vi faccio i complimenti un'altra volta, insomma, perché è veramente un gran titolo, dice già tutto. Nino, grazie mille, no, e grazie, noi a voi, andiamo avanti a raccontare puntata, questa meravigliosa storia. Committing the crime of taking your time. You're laughing, we're carving your name in a tree for the kids to see. We hear you, we feel your ecstasy. You paid the penalty. L'ultima apparizione televisiva di Andrea Brambilla su una rete importante è a Zelig Circus insieme a Nino, la trasmissione in seconda serata di Italia 1. Questa loro partecipazione risale alla fine del 2012. Noi cazzuti del terzo millennio, ormai la spesa non la facciamo neanche al supermercato, la spesa la facciamo da casa, va bene? Col BlackBerry, col BlackBerry lo facciamo. Cos'è, un cane lupo? Ma non è un cane lupo, tu prendi, fai pu pu fai tutto, non fai e fai la spesa, è tonale. Ah, un telefono di montagna. No, no, è tonale anche a Reggio Calabria. Ma va? Sì. Adesso mettono il tonale a Reggio Calabria, te al ponte. Ma che te al ponte? Nel settembre 2013 Andrea Brambilla annuncia al Corriere della Sera di avere un cancro ai polmoni e fa sapere che farà chemio, radioterapia, ma non per questo smetterà di recitare. Lui ha deciso di parlare della sua malattia per rispetto del pubblico, delle persone che lavorano con lui all'allestimento dello spettacolo teatrale successivo, che non ci sarà, perché un mese dopo se ne andrà dopo una crisi notturna. Qualche ora prima aveva salutato Nino chiedendogli di portargli del purè alla visita successiva. Non lo mangerà quel purè, perché Andrea Brambilla muore a 67 anni. Ci sono storie di persone che nella loro vita hanno saputo dare questo colpo d'ala, magari volando in due, come Nino e Andrea, Gaspare e Zuzzurro, che hanno segnato un momento importantissimo della comicità di buon gusto dell'Italia degli anni 80-90 e anche successivamente. Ognuno di noi nella vita può dare questo colpo d'ala, bisogna credere in se stessi, lavorare molto e avere del talento come i due di cui abbiamo parlato adesso. Se volete mandarci dei commenti o segnalarci altre vite, fatelo, scrivete al falcoilgabbiano@radio24.it o alla nostra pagina Facebook o comunque nei vari social, compresi i miei, insomma, se volete mi trovate. Ciao, a domani. Falco e il Gabbiano, un programma di Enrico Ruggeri. Testo di Giovanni Savarese.